Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come sempre, mio costume, vi auguro una buona serata se ci ascoltate alle 20.45. In replica vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore Online, Guardie o Ladri. Allora, oggi parliamo di un caso di un singolo radioascoltatore, ma lo prendiamo come sempre come testimonianza per centinaia, migliaia di casi, e diventeranno sempre di più. Eh sì, perché i non vedenti, i ciechi, ciechi assoluti o ipovedenti conducono sempre più, ringraziando il Dio, una vita quanto più vicina ad una vita normale, e quindi l'uso di internet, delle tecnologie, diventa, come dire, conoscenza comune. Un radioascoltatore, Pier Gabriele Gennaro, ci ha scritto presentando il suo caso, un caso di un'attesa, di una lunga attesa nei confronti di Tiscali per avere delle agevolazioni tariffarie. Noi abbiamo con noi il radioascoltatore Pier Gabriele Gennaro, al quale do il buongiorno. Buongiorno. Allora, lei, Pier Gabriele Gennaro, vive e lavora a Bergamo. Ci racconti la sua, come dire, piccola odissea, io ovviamente esagero, il mio è un paradosso, che ha vissuto con Tiscali. Prego. Sì, io ho ricevuto più o meno un anno fa una comunicazione via mail dalla sezione provinciale dell'Unione Italiana Cechi, che mi informava di una delibera dell'Authority delle Telecomunicazioni che prevede, questa delibera, delle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio ADSL, del servizio di ADSL, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi tutti gli operatori. Certo. Si era in attesa poi della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di questa delibera. Successivamente ho ricevuto la mail che confermava l'avvenuta pubblicazione e quindi il dovere degli operatori di adeguarsi. E quindi questo obbligo prevede una riduzione tariffaria del 50% ed un'applicazione dell'IVA al 4 anziché al 20, sbaglio? Sì, no, esatto, è il 50% per il l'abbonamento flat, esatto. Oppure una riduzione di 90 ore gratuite per le tariffazioni a consumo. Benissimo, ecco, questo mi sembra, diciamo così, una buona cosa. Soltanto che cosa è accaduto? Quanto ha dovuto attendere prima che, e soprattutto quanto ha dovuto insistere affinché queste agevolazioni le fossero riconosciute? Dunque, io ho inviato la mia richiesta a Tiscali via fax, fornendo anche la documentazione sanitaria che attestava la mia situazione di non vedente. L'ho inviata il 1 settembre. Nel giro di 2 giorni Tiscali mi ha inviato un SMS che mi informava che la mia richiesta sarebbe stata lavorata appena possibile. Possibile, cosa vuol dire? Vuol dire che dopo 1 mese e mezzo ho chiamato nuovamente Tiscali, sentendomi dire che avrebbero sollecitato la cosa e mi consigliavano di richiamare dopo 10 giorni. Ho richiamato dopo 10 giorni e hanno provveduto ad un nuovo sollecito. Ho incominciato a inviare un po' di mail, in tanti mesi sono trascorsi finché qualche settimana fa, di fronte all'ennesimo muro di gomma dell'operatore incolpevole da parte sua, ma che certo, non conosceva nemmeno l'esistenza di questa normativa, delibera, certo. Ho deciso di rivolgermi alla sua trasmissione. Benissimo. Spiaggia. Ecco, allora, come dicevo prima, fuori onda, in un paese civile il gabibbo non dovrebbe esistere, così come non dovrebbe esistere il ricorso ad un giornalista per risolvere i problemi. Ahimè, spesso un paese civile non siamo, e quindi bisogna ricorrere a questi mezzi legittimi, sollevare i problemi per risolverli. E così Carlo Mannoni, responsabile degli affari legali e regolamentari di Tiscali Italia. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Ma intanto voglio dire, il fatto che voi svolgiate questo ruolo è di per sé importante. In questo caso specifico io voglio, così, vi do un po' qual è lo stato dell'arte. Allora, Tiscali ha, come dire, ha realizzato immediatamente l'offerta riservata alla categoria ai non vedenti, così come era previsto dalle delibere dell'Authority. Quindi da subito ha abbiamo mai reso disponibili le offerte. Poi cosa succede? Ci sono due fatti qui che incidono, diciamo, su questo ritardo. Uno è un tema che riguarda il fatto che, trattandosi di un'offerta specifica, è un'offerta che rimane, diciamo, fuori dai flussi standard, no? E come tale, purtroppo, e di questo ci scusiamo ovviamente, può essere soggetta, come dire, a una tempistica, diciamo, non appropriata. Quindi la legge del mercato giustamente si basa sui grandi numeri, quindi voi privilegiate. No, nel senso che ci sono sistemi automatizzati che spesso, diciamo, come vengono le cose più rapide, a volte non è così per tutto. Qui c'è un altro punto però particolare che vorrei aggiungere, perché nella sua premessa si parlava dello sconto e dell'IVA. In realtà le due cose non sono collegate, probabilmente può essere confermato, insomma, nel senso che la delibera dell'Agicom si riferisce allo sconto. Certo, dal 50% di riduzione tariffaria. Va bene, infatti, peraltro, voglio dire, giusto per essere precisi, ho già provveduto poi adesso a risistemare tutto quanto e mettere note di credito, no? Sin dall'inizio. Sì, insomma, ma questo qui infatti lo abbiamo detto e l'ha riconosciuto anche il nostro radioascoltatore. Quello che io mi domando è perché debbano passare così tanti mesi. No, le spiego. Ci sono uno degli elementi, diciamo, che ci sta creando problemi su questo fronte e sul quale abbiamo anche coinvolto, diciamo, l'Agenzia delle Entrate per un approfondimento. È il tema dell'IVA al 4%. Il tema dell'IVA al 4% non è pacifico e quindi noi ci troviamo un po' in una situazione particolare. Io ho verificato anche cosa fanno gli altri operatori e a oggi nessuno degli altri operatori. E questo può portare 4%. E quindi questo, lei dice, può portare qualche ritardo nelle risposte. Se lei fa poi una richiesta di interpello, cerca di capire con l'Agenzia delle Entrate, non voglio girarla sugli altri, però diciamo, no, è una situazione estremamente particolare. No, ma ci dà uno spunto, anzi, ci dà uno spunto anche per approfondirlo poi con l'Agenzia delle Entrate. Io intanto la ringrazio per questa sua risposta. L'importante è che il caso sia stato risolto. Ovviamente il mio è un sollecito a tutti i gestori affinché vengano presi sollecitamente in esame le richieste degli ipovedenti, dei ciechi assoluti e no, perché mi sembra doveroso. Ma io vorrei tanto dare il buongiorno a Franco Lisi, che è consigliere regionale dell'Unione Italiana Ciechi in Lombardia. Buongiorno Lisi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, che cosa possiamo aggiungere a questa discussione? Ma guardi, indubbiamente io credo che l'autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, con la delibera cui si fa, con la deliberazione cui si faceva riferimento, la 202 del 2008, che a sua volta fa ulteriore chiarezza rispetto alla precedente del 2007, non lascia più margini di dubbi rispetto a una interpretazione inequivocabile su questa materia dell'accesso gratuito ai servizi internet, rivolta ai ciechi totali e alle famiglie nel cui nucleo è presente o non vedente. Cioè lei dice non soltanto una riduzione tariffaria, ma addirittura una gratuità del servizio. Assolutamente, la fruizione è gratuita per 90 ore rispetto alla navigazione, a prescindere dalla tecnologia utilizzata e dalla velocità, a prescindere appunto dal servizio prescelto, e il 50% di sconto sulla riduzione, sul canone mensile nelle tariffe di abbonamento. Okay. Ma perdoni, al di là poi ci sono anche altre agevolazioni, il primo cambio gratuito e cose di questo altro tipo, che io vorrei rimandare al sito agicom.it. Mi piace, se lei mi consente, sottolineare. Prego. Però che queste agevolazioni non sono fine a se stesse. Dietro tutto questo c'è dietro questo riconoscimento, io credo venga rappresentato sia uno strumento per attuare la prestazione dei servizi in condizioni di assoluta eguaglianza. Assolutamente. È uno strumento essenziale ai fini della garanzia della libertà di comunicazione e, come dire, di integrazione sociolavorativa dei ciechi. Ricordo che oggi la persona non vedente, e ancora molti non lo sanno, si deve far carico, anche se pur in parte, dei costi della strumentazione indispensabile per accedere a internet. Sto pensando di display braille, alle sintesi vocali. Ricordo che questi strumenti comportano di fatto dei tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri. Assolutamente, ecco. Quello che lei dice è corretto, però io a questo punto vorrei chiamare in causa Mannoni per chiedergli se effettivamente questi questi parametri minimi vengono effettivamente, ma ne sono certo, rispettati da Tiscali. Assolutamente, guardi, noi abbiamo fatto, devo dire la verità, siamo stati tra i primi a a rilasciare l'offerta e quindi averla comunicata all'Agicom. Abbiamo anzi interagito ripetutamente con l'Agicom su questo tema, perché c'era proprio un tema che riguardava, diciamo così, le 90 ore piuttosto che la convenienza poi effettiva che si rischiava di non avere, diciamo, per l'utente finale. Per cui dal nostro punto di vista noi ci sentiamo, come dire, in linea con quelle che sono tutte le indicazioni che sono arrivate dall'Agicom, e anzi devo dire mi dispiace particolarmente, perché da un lato eravamo stati pronti e molto attivi nel rispondere alla sollecitazione, e purtroppo magari delle volte dal punto di vista pratico poi non lo siamo stati. Allora, io colgo l'occasione per, sono sicuro che qualcuno delle agenzie delle entrate o del Ministero delle Finanze ci starà ascoltando, ne sono certo, quindi direi, lo dico al legislatore, lo dico a chi deve disciplinare presso l'Agenzia delle Entrate, magari con una circolare questi aspetti, cerchiamo di fare chiarezza qual è il livello, l'aliquota IVA che deve essere applicata, altrimenti poi questo, come abbiamo sentito dalla voce di Mannoni, che intanto ringrazio, così come ringrazio gli altri ospiti per i loro interventi, può diventare un motivo di lungaggine e di ritardo nelle risposte di riduzione tariffaria per i non vedenti. Allora, interrompiamo qui la nostra chiacchierata, ringrazio i miei ospiti ancora una volta. In regia Filippo Auregi, in studio Laura Fagin, Francesco Di Bruno, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.